il senso ed è inutile movimento. Se pensi che gli altri siano altro da te, se pensi che il mondo sta in piedi da sé, se pensi che non sei importante per tenere in piedi ogni cosa che vedi, se pensi che ognuno sia solo una parte che porta e che parte da sé. La vita è un colore costante di polvere grigia e sapore di niente, se non la colori col senso di chi sta piangendo e chiedendo di te. Di te, di te, ho bisogno del tuo essere fragile. Di te, di te, ho bisogno del tuo essere debole. Io ti amo perché il vero amore è libera scelta di cura, attenzione. Io t'amo perché il tuo bisogno d'amore dà senso anche a me. Senso ed è inutile movimento, se pensi che i sogni, i dolori degli altri non parlano dentro i silenzi. La vita si brucia in un lampo presente e ti lascia al frastuono del tuono. La vita è un vibrare di imbroglio e dell'ultimo sbaglio lasciato da solo. La vita è un colore costante di polvere grigia e sapore di niente, se non la colori col senso di chi sta piangendo e chiedendo di te, di te, di te. Ho bisogno del tuo essere fragile, di te, di te. Ho bisogno del tuo essere debole. Io ti amo perché il vero amore libera scelta di cura, attenzione. Io t'amo perché il tuo bisogno d'amore dà senso anche a me. Sguardo assente di te, trasparente di te, solo ed indifferente di te, che combatti totale, mi sfiori, commuovi e poi mi imprigioni a quella dolcezza che solo sa avere la foglia prima di cadere, prima di cadere. Di te, ho bisogno del tuo essere fragile. Ho bisogno del tuo essere debole. Io ti amo perché il vero amore è libera scelta di cura, attenzione. Io t'amo perché il tuo bisogno d'amore dà senso anche a me. Di te, di te.